elele ma, uyelele mama siya chavula tina. Elele mama, oh ye. Elele mama, Zimbabwe. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, oh Zambia. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, Malawi. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, Mozambique. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, Angola. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, Botswana. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, Lesotho. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, Swaziland. Elele mama, elele mama, oh ye. Elele mama, elele mama, South Africa. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele elele elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele elele elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, oh Africa. Elele mama, elele mama, oh Africa. Elele mama, elele mama, oh Africa. Elele mama, elele mama, oh Africa. Elele mama, elele mama, oh Morocco. Elele mama, elele mama, oh Somalia. Elele mama, elele mama, oh Ghana. Elele mama, elele mama, oh Nigeria. Elele mama, elele mama, oh Gambia. Elele mama, elele mama, oh Sierra Leone. Elele mama, elele mama, oh Kipite. Elele mama, elele mama, oh Africa. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, oh Africa. Elele mama, elele mama, oh Africa. Elele mama, elele mama, oh Zimbabwe. Elele mama, elele mama, oh Zimbabwe. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama, siya chavula tina. Elele mama, elele mama. Ciao a tutte e tutti e bentornati a Uru, la trasmissione che parla di Africa sia dal punto di vista musicale che da come notizie e cosa succede. Questo era Jingle Oba, un pezzo del 1959, inciso da Babatunde Olatunji, ed è stata la prima incisione su un disco, su un vinile in stereofonia di tutta l'Africa. Babatunde Olatunji è stato un percussionista, anzi il primo percussionista conosciuto che ha inciso, il primo percussionista africano che ha inciso ed è stato conosciuto proprio perché appunto aveva inciso al di fuori del proprio paese, e che sostanzialmente ha consacrato la propria vita, oltre all'attivismo politico e sociale, a suonare e a insegnare le percussioni. Lui era nato in un piccolo villaggio di pescatori e fin da bambino assistito ai percussionisti che costruivano i tamburi in legno e pelle di capre, quindi ovunque le percussioni pervadevano la vita della sua gente e quindi anche della sua vita, e quindi il ritmo della sua infanzia è divenuto successivamente quello che può essere chiamato insomma come il ritmo della sua vita. Dicevamo anche attivista politico, tant'è che fin dalle prime marce per i diritti civili degli anni 50 negli Stati Uniti lui vi ha partecipato ed è stato come una sorta di colonna sonora. Quindi, come avete capito da questa introduzione, la puntata di oggi è dedicata alle percussioni, una serie di strumenti che caratterizzano da sempre il ritmo della musica africana e che via via che vi faremo ascoltare i pezzi musicali spiegheremo un attimo anche qual è lo strumento che viene suonato e che tipo di strumento è. Per esempio, cominciamo subito dal balafon, che è suonato in questa canzone di Ali Dembélé Petit Adama. Il balafon è uno strumento musicale caratteristico dell'Africa subsahariana occidentale. Si tratta di uno xilofono ed è diffuso specialmente presso le etnie Susu, Malinké, Mandingo, quindi Guinea, Mali, Senegal e Gambia. Le prime testimonianze storiche del balafon risalgono addirittura al XII secolo. È composto da una struttura di base in fasce di legno o bambù in cui vengono posizionate orizzontalmente le zucche, che vengono chiamate calebasse, che fungono da cassa di risonanza. Queste zucche sono in numero variabile, solitamente intorno alla dozzina. Naturalmente più le zucche sono grandi più producono un suono grave, le zucche più piccole producono un suono più acuto. A volte le zucche vengono forate e rivestite con una sottile membrana. Prima, tradizionalmente, si usava a questo scopo la tela prodotta da alcuni ragni per avvolgere le loro uova, mentre adesso è più comune l'uso di pellicole di plastica. Di sopra delle zucche si trovano i tasti, fatti di legno di forma rettangolare, posizionati in ordine decrescente, esattamente come le calabasse sotto. Quindi ascoltiamo Ali Dembélé e Petit Adama. Thank you. parliamo, una notizia ci racconta come la radio possa essere strumento dell'emancipazione femminile, in questo caso è in Niger, anche perché molte donne, anzi le donne nigerine, non hanno fonte affidevole informazioni. L'elettricità è accessibile solo per il 15% della popolazione, e così è da escludere l'uso di TV e computer. Internet non copre gran parte del paese, quindi sono disponibili poche informazioni anche da questo punto di vista. E comunque, anche se i computer e l'internet fossero ampiamente disponibili, il tasso di alfabetizzazione del 15% del Niger, del paese, rappresenterebbe un ulteriore ostacolo. Oltretutto, la metà delle ragazze non completa la scuola elementare. Ciò rende difficile anche scrivere un semplice messaggio con il cellulare. E quindi è evidente che, oltre a tutta la popolazione, in particolare le donne, dipendono dalla radio per ottenere informazioni. E sono state fatte delle ricerche riguardanti l'impatto della radio sulla possibilità dell'emancipazione femminile in Niger. È stato scoperto che il Niger è ricco di emittenti da radiofonio, 184 stazioni comunitarie e una stazione statale, in particolare Ouadou Sahel. L'imparzialità non è garantita appunto dalla stazione statale, e quindi le stazioni della comunità, pur non avendo diritto di trasmettere proprie notizie, ritrasmettono programmi di notizie da fonti internazionali indipendenti. Oltre alla trasmissione dei programmi, alle ritrasmissioni di questi programmi, molte delle radio comunitarie organizzano sessioni di sensibilizzazione della comunità in cui partecipano e possono ricevere informazioni direttamente da chi parla, da chi telefona alla radio. Quindi tutto ciò significa che molte informazioni vitali arrivano alle donne in una sorta di passaparola, nel senso che in questo caso il passaparola diventa la radio. Quindi un esempio, per esempio, è un esempio Radio Scout, che lavora, che trasmette a Kwara Tegui, una delle zone più povere della banlieue, della periferia della capitale di Niamey. E tra le altre cose, Radio Scout ha appena lanciato Kalangu, un gruppo di discussione radiofonico gestito da donne e per le donne. E quindi si ha durante questa trasmissione dei focus in cui le donne parlano rispetto a quello che è l'argomento specifico puntata, ne parlano durante la trasmissione, e conseguentemente la trasmissione appunto viene ascoltata, e a sua volta l'ascolta sempre donne può reintervenire e così ampliare la discussione di quello che è rispetto all'argomento del focus. Sono passi in avanti, piccoli, però sono importanti, perché indicano delle soluzioni e dei passaggi affinché l'informazione arrivi non solo a tutti, ma arrivi in questo caso anche alle donne, che oltre ad avere tutte le barriere citate precedentemente, cioè la mancanza, l'analfabetizzazione, la difficoltà data in particolare dalla mancanza della luce elettrica, di utilizzare computer e TV, e quindi ecco, la radio rappresenta il principale strumento di informazione da e per le donne. Parliamo adesso di un altro tipo di percussione, uno dei più utilizzati, ed è il djembe, che è un tamburo a calice originario sempre dell'Africa occidentale, in particolare della Guinea Conakry, Mali, Burkina Faso, Senegal, Costa d'Avorio, più o meno con qualche diversificazione comunque in tutta l'Africa. Calice di legno ricoperto da pelle di capra rasata, viene suonato a mani piene e ha tre colpi principali: lo slap, che è il suono acuto, il ton, che è il suono medio, e il bass, che è il suono basso. La particolarità del djembe è che è dotato di una gamma di toni particolarmente ampia, che ne consente l'uso come strumento solista, oltre che ritmico, oltre che all'interno di una sezione ritmica più ampia. La pelle del djembe viene tesa attraverso due procedure distinte di tiraggio, chiamato tiraggio verticale e tiraggio orizzontale. Il tiraggio verticale si effettua subito dopo il montaggio della pelle e consiste nel far raggiungere una buona tensione alle corde. Il tiraggio orizzontale consiste invece nell'intrecciare le corde precedentemente tirate utilizzando una terza corda che viene legata in direzione orizzontale al fusto. I djembe tradizionali sono costruiti a partire da un unico pezzo di legno. Il prossimo pezzo è di Adama Dramé, nato a Nuna in Burkina Faso, è un griot di sesta generazione di cultura malinche. Seguendo le orme del padre, Dramé divenne un griot. Il padre di Dramé aggiunse tocchi moderni alla sua band, tra cui chitarra, fisarmonica e sezione di corno, e allo stesso modo Dramé ha esteso la sua gamma musicale a un assortimento di batteria, compreso il tamburo parlante, il bongolo e il chon, e ha ampliato la presenza internazionale del griot portandolo in tutto il mondo. Di lui ci ascoltiamo Furu. Bila bilomina sababu mabanda ramela o ka dai le furulano mia la chiama bamburgina canabilla bilomina sababu mabaye wari maba Ricordo che siete all'ascolto di Radio Wombat su wombat.noblogs.org per lo streaming, e sempre da questo sito al menu podcast potete ascoltare tutte le trasmissioni passate di tutte le trasmissioni della radio. Potete anche seguirci su Twitter a twitter.com/radiowombatfi. Vi ricordiamo che Uru ha un proprio profilo Twitter che è uru-rw, e la posta della radio è postawombat@insiberia.net. Una cosa per domenica il CSA Nest Emerson propone una passeggiata alle ville Medice di Castello. L'appuntamento è alle 10 al Circolo di Castello in via Reginaldo Giuliani 374. Praticamente verrà fatta una passeggiata da lì fino alle ville e sarà visto l'interno di Villa Corsini e poi successivamente il parco di Villa Reale di Castello. Alle 10 domenica al Circolo di Castello, via Reginaldo Giuliani 374. E durante il periodo dell'indipendenza in Ghana, il popolo Ga, che abita nella regione costiera vicino ad Accra, sviluppa una danza particolare e una musica particolare che si chiama Kpanlongo. E il tamburo con cui veniva e viene tuttora suonata, i tamburi vengono utilizzati per questa tipo particolare di danza, di musica e di danza, viene chiamato a sua volta Kpanlongo, anche se essendo un tipo di percussione, un tipo di tamburo che già era presente, diciamo, nella cultura ghanese, il nome corretto sarebbe Twileshi, che appunto era il nome con cui veniva chiamato precedentemente. Ora tutti lo chiamano Kpanlongo perché è strettamente associato a questo tipo di musica. È una percussione, un tamburo simile a una conga, e è suonato con una tecnica a mano relativamente leggera, tanto che per esempio non va assolutamente associato ai djembe, proprio perché appunto il djembe ha una tecnica di percussione dello strumento molto pesante, e quindi appunto questo tipo di tamburo non serve, non può riprodurre il volume e la gamma dei suoni tipici di questo tamburo. E quindi il prossimo pezzo è un pezzo in cui c'è predominante questo tipo di strumento, il kwalongo. Sono Ashtein Zonze e Kassum Traoré. Ashtein Zonze è un musicista ghanese, mentre invece Kassum Traoré è maliano. L'album si intitola Bashtassi from Bamako to Accra ed è concepito appunto come una sorta di viaggio, e è la prima volta che un intero album è dedicato alla combinazione di percussioni kwalongo e djembe. È quindi un album sperimentale. Il pezzo che ci ascoltiamo si intitola Bamako to Accra. prossimo pezzo è basato sulla, sul sabar. Il sabar è un tamburo su piedi della cultura Wolof, costruito con diversi tipi di legno che ne arricchiscono il suono, e ricoperto di pelle di capra rasata. La ricerca del legno e la sua trasformazione sono fatti dai Laobes, un'etnia a pelle specializzata nel lavoro sul legno, ma l'assemblaggio vero e proprio del sabar è fatto dai griot, di cui è uno strumento dei più utilizzati. Per questo strumento vi facciamo ascoltare Dudun Diae Rose, che è uno dei più celebri percussionisti africani del XX secolo, il matematico del ritmo lo chiamavano, e il suo strumento preferito appunto è il sabar tradizionale e le sue numerose varianti. Nato a Dakar, proviene da una famiglia di griot, ha mostrato interesse per le percussioni fino dall'età di 7 anni, e in cui incontra uno degli allora maggiori percussionisti del paese, cioè il Djadi Mama Sek, che sarà il suo maestro per diversi anni. Ha creato centinaia di ritmi e inventato nuovi strumenti a percussione. Compositore e ricercatore, ha creato la prima scuola di percussioni a Dakar, dove insegna i ritmi, e per la prima volta ha formato un'orchestra di donne percussionista. Di lui ci ascoltiamo Majorette. Cine Ciclo, il cinema in bicicletta. Con questo progetto si proiettano film servendosi dell'energia prodotta da una bicicletta equipaggiata di un generatore elettrico a pedali. Così l'associazione Cine Ciclo porta il cinema nelle zone più remote del mondo, dove non c'è elettricità. Il progetto, partito nel 2015 in Senegal e proseguito poi in America Latina, ora approda nuovamente in Africa occidentale. I cortometraggi in lingua locale trattano temi ambientali e sociali di attualità. Gli abitanti del villaggio sono invitati a pedalare per gustarsi lo spettacolo. Le proiezioni itineranti si svolgono anche in Europa. Qui, al contrario, si mostrano film che promuovono la solidarietà e combattono il razzismo. Solo in Senegal, Cine Ciclo ha percorso 3.000 km e realizzato oltre 100 proiezioni e coinvolto 11.000 spettatori. Per chi vuole guardare, abbiamo anche il sito web cineciclo.com. Amampondo è un ensemble di percussionisti sudafricani, è stata fondata a Langa, città del Capo, molto tempo fa, nel 79, e il loro nome, il nome del gruppo, significa proprio persone di un pondo, o meglio del Pondoland, che è una regione, una zona del Sudafrica dove la maggior parte dei membri della band è cresciuta. E il gruppo ha iniziato come artisti di strada per le strade di Città del Capo e poi appunto fino al 1979 hanno effettuato la loro prima registrazione, The Heartbeat of Africa, registrata appunto dal vivo a Città del Capo nel 1983. Di loro vi facciamo ascoltare Drums for Tomorrow. Thank you. prossimo pezzo è Mamma di Keita, guineano, nato a Balangudu, percussionista, si è specializzato nel djembe ed è anche un fondatore della scuola di percussioni mandinga. Keita è stato educato nelle tradizioni del suo villaggio, imparando la storia e la musica della gente malinche. A quel tempo la Guinea era governata da Sékou Touré, che poneva un'attenzione particolare sulla cultura guineiana attraverso spettacoli dal vivo e un sistema di gare locali, regionali e nazionali che reclutava i più grandi artisti della Guinea. Durante il National Festival del 1964, Keita, allora 14enne, insieme a 50 altri percussionisti e numerosi altri artisti, fu selezionato per formare le ballet National Jiloba. Avevamo già parlato di questo periodo post-indipendenza della Guinea, che appunto aveva un'attenzione sul un risveglio alla cultura della Guinea attraverso tutte le arti e in special modo la musica, perché naturalmente veniva recuperato anche la tradizione propria dei villaggi, delle zone di tutta la Guinea, in confronto invece alla cultura coloniale che avevano dovuto sopportare per così tanto tempo. Di Mamadi Keita ci ascoltiamo Cucù. piccolissimo assaggio di percussioni africane, visto che appunto l'Africa è la patria delle percussioni, che sono diffuse in tutto il continente, ad eccezione, e sono come dire, lo strumento, se non il principale, comunque lo strumento cardine delle culture musicali africane, eccetto del Madagascar, in cui viene sì utilizzato, però non in una forma così pregnante, così grande, diciamo, come in tutto il resto del continente. Abbiamo ascoltato suoni prodotti da balafon, djembe, campanlongo, e ricordiamo che Uru l'ascoltate in streaming da Radio Wombat, wombat.blogs.org. va in onda il venerdì alle 21:30 e in replica la domenica alle 23 e il lunedì alle 8:30, e la potete anche riascoltare tramite podcast andando alla sezione apposita appunto di Radio Wombat, sempre lo stesso sito wombat.noblogs.org. Ci sentiamo venerdì prossimo, ciao a tutte e tutti. Ciao ciao. Sia ciao latina, sia ciao latina, sia ciao latina, sia ciao latina, oh Ethiopia, oh Uganda, oh Kenya, oh Tanzania, oh Ghana, oh Nigeria, sia ciao latina, sia ciao latina. Sia tabu latina, helele mama, helele mama, sia tabu latina, helele mama, helele mama.